Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio e benvenuti. Luca Tremolada al microfono, un po' raffreddato. Antonio Dini, anche lui un po' raffreddato. È andata così. Eh sì, la voce dell'innovazione oggi mi sa che sarà un po' appestata. Speriamo di non appestare anche le altre persone in studio. Ci siamo solo noi, per cui è andata bene. Oggi puntatona dedicata ai geek. Chi sono i geek? Leggo da internet. Geek, termine utilizzato per indicare una persona talmente appassionata ad un determinato ambito da trasformare questo interesse in una vera e propria devozione. In alcuni casi persino ossessione. Come avete capito, parliamo di noi, almeno sicuramente di me. Te vorresti dire, Luca, quindi che essere geek vuol dire ad esempio avere in casa cimeli di Star Trek o di Star Wars, Guerre Stellari, bellissime. O avere l'orologio con la telecamera incorporata, la maglietta con la rete wifi, la sveglia col timer super mega moderno. Se collezionate giochini del Commodore 64 siete geek. Se sapete quando, cioè le date precise di quando si aggiorna il software della Apple, siete dei geek, siete proprio tremendi. Ecco, se sapete tutto questo siete persone appassionate. Ebbene, noi vogliamo spezzare una lancia perché siamo convinti che i geek salveranno il mondo. Tradotto, chi ha un'ossessione forte, questo è un mio pensiero personale, però insomma chi ha un'ossessione forte vera ha la vocazione a cambiare le cose, a innovare, a essere un creatore di mondi, a inventarsi degli oggetti particolari. Non a caso la trasmissione noi la dedichiamo agli oggetti dei geek. Assolutamente sì, gli oggetti dei geek, cioè tutte quelle cose attraverso le quali si incarnano le loro piccole passioni ed ossessioni. Alcune sono molto divertenti, altre sono veramente particolari. Per esempio, secondo te, nel nostro paese sono secoli che si dibatte se è meglio il caffè in casa fatto con la moca oppure quello preso al bar con la macchina dell'espresso. Indovina i geek invece cosa hanno tirato fuori? La terza ipotesi. È la macchina con le cialde, la macchina automatica. Esatto, hanno automatizzato anche il caffè. E noi lo chiediamo anche a loro, 824 0024, se siete degli automatizzatori di caffè, se il caffè con la moca è vecchio, è stanco, è tradizione, e invece è molto meglio il caffè, insomma, che schiaccia un bottone ed esce, per capirci, non bisogna avvitare o svitare un bel nulla, chiamateci. Se volete scriverci un sms raccontandoci qualche oggetto da geek che avete visto su internet, noi metteremo gli indirizzi di questi oggetti su Novalab24, il Twitter. Il nostro meraviglioso Twitter che vi consigliamo di seguire. E abbiamo però chiaramente un ospite in collegamento. Lui si chiama Marco Barulli e buongiorno. Buongiorno. E cedo la parola ad Antonio Dini perché anche lei in un certo senso ha una passione forte, la spiega, una passione vera. Sì, una passione che è quella della bicicletta, la passione del trasporto che una volta abbiamo considerato in Italia il trasporto dei nostri nonni, no? Nella gioventù di molti di noi c'è il recupero del motorino, dello scooter, della Vespa per emanciparci dalla fatica del pedale, e invece c'è chi ha scoperto e riscoperto che anche con un velo di tecnologia si può apprezzare la bicicletta e si può anche cercare di innovare, credo, in qualche modo il panorama delle biciclette. Marco Barulli, addirittura lei sta creando una startup che ha a che fare con la bicicletta, ma in che modo e come si chiama? Dunque, la startup, che è proprio, diciamo che in questo momento è un sito, si chiama Ciclourbano, ciclourbano.it l'indirizzo. Abbiamo già messo l'indirizzo sul Twitter. Benissimo. E è un posto dove vogliamo parlare di bici che sono pensate e realizzate per trasportare un carico, e non importa che si tratti dei vostri tre bambini, della spesa settimanale, del cane, della tavola da surf. La cosa su cui ci focalizziamo è mostrare come in moltissime situazioni un mezzo a pedali sia oggi la soluzione migliore. Noi abbiamo preso dal suo sito un file, sentiamolo. Moi, Kili! Yeah! Yeah. Yeah. Förster gang! Pedal gang! Tredje gang! Last La simpatica musichetta è una musichetta di un video meraviglioso girato a Copenaghen, dove c'è questa curiosissima corsa di biciclette strane, vero Antonio? Sì, è una corsa di biciclette cargo, che sono una cosa che vale la pena di vedere. Credo, Marco Barulli, questa qui è una gara che va avanti da parecchio tempo, nel senso che non è che è stata inventata da pochi anni. Il video ovviamente è sul sito di cicloturismo.it. Era una gara che è esistita per decenni, prima della Seconda Guerra Mondiale, e poi la motorizzazione, diciamo così, ha fatto un po' sparire il ruolo centrale dei fattorini che trasportavano un po' di tutto a quelle latitudini in bicicletta. E quindi questo, che era un evento tradizionale, è rinato in questi anni qui, quando ormai Copenaghen è una delle città al mondo con la più alta percentuale di spostamenti fatti in bicicletta. Quindi, e questa è una cosa anche curiosa, perché se uno vive a Copenaghen non solo vede una gran varietà di biciclette, che in Italia ci sono zone d'Italia che sono belle piatte, ma soprattutto ha la possibilità anche di trovarle e di provarle. Da noi in Italia mi sembra che siamo un po' rimasti legati a questo schema, che le biciclette alla fine sono quelle da corsa o le mountain bike. Cosa si potrebbe fare per cercare di, se non altro, vederne di biciclette un po' strane, un po' diverse? Il ciclo urbano vuol fare proprio questo, cioè vuole evitare di costringere, come ha fatto il sottoscritto, a girare l'Europa per provare, testare con la famiglia delle biciclette. Ma in che senso con la famiglia, mi scusi? Cioè, nel senso che lei si è portato dietro due gemelle. Attenzione. Due gemelle in bicicletta tutto insieme? Sì, sono due gemelle piccole di 2 anni e quindi... Che non è un tandem, quindi? Perché no, è una di quelle bici che noi potremmo definire in italiano con il cassone, quindi dove tra la forcella anteriore e la ruota, diciamo tra il manubrio della bicicletta e la ruota, c'è un cassone di dimensioni considerevoli, però è una bicicletta, quindi ha solo 2 ruote, non è un triciclo, che invece è anche quello molto comune, soprattutto in Danimarca. Questo modello che ho scelto è un modello di origine olandese, dove invece ha la predominanza il modello a 2 ruote. E in Olanda poi la bicicletta, no, non c'è una salita in Olanda a cercarla con il goniometro, quindi la bicicletta viene proprio bene. Al limite si casca nel canale, se mi ricordo com'è la vita da quelle parti, ma le salite no. È vero che non ci sono salite, però ci sono un clima veramente infame, venti forti, molti ponti, quindi di strappetti ce ne sono parecchi, e soprattutto piove praticamente tutti i giorni, quindi direi che un olandese non si può, diciamo, non può che invidiarci in quanto a ciclabilità delle nostre terre. È chiaro che probabilmente chi vive a Gubbio fa un po' fatica a immaginarsi una mobilità in bicicletta con 3 bambini sulla bicicletta, però per chi vive, e siamo la stragrande maggioranza, sulla costa o in pianura. Io posso portare anche un'altra testimonianza differente, che è quella che sto trovando facendo il pendolare che si muove molto in treno, che sto trovando con un altro tipo di biciclette che a quanto pare sono molto amate dai geek, sono molto amate dagli smanettoni tecnologici, e che sono le biciclette pieghevoli. Non so se vi ricordate, uno dei grandi successi in Italia negli anni 60 fu la bicicletta, la Graziella, la mitica Graziella, quella innovata, che aveva sempre il cestino, no? Cioè, mi ricordo. E le ruotine piccole, che la piegavi in due e la mettevi in macchina, che è una bicicletta in realtà figlia di un designer italiano notevolissimo, cioè Rinaldo Donzelli, che è stata fatta dalla Teodoro Carnielli di Vittorio Veneto. Dini sa tutto, preparatissimo, impressionante. Santa internet in questo caso. E questa bicicletta in realtà era la vecchia idea della bicicletta pieghevole, inventata all'inizio del secolo dagli inglesi per i paracadutisti, eccetera eccetera. Quella che ho visto io è uno dei modelli prodotti da una decina di marche per i pendolari dei paesi del nord, e in America e in Inghilterra o anche in Olanda. C'è una bicicletta super tecnologica, le ruote molto piccole, in lega leggerissima, che si ripiega e scompare praticamente in un bustone. Pesa una decina di chili, non è un esercizio proprio per tutte le braccia. No, infatti, però te la metti sulla schiena o la metti in una valigetta e scendi. Scendi e sali in treno, sali in metropolitana, addirittura non te la rubano perché te la porti su in ufficio, e questa è la loro innovazione. Non è che si sono inventati la fine del mondo, però è una piccola innovazione. Però è carina, però se hai due gemelli come signore già diventa complicato, cioè devi portarne 3 di biciclette pieghevoli. In questo caso direi di sì. Lei ci crede alla bicicletta pieghevole? Immagino di sì. Barulli? No, il problema problema è che la bicicletta pieghevole serve quando c'è anche un sistema di trasporti pubblici funzionale, funzionante e che siamo abituati a prendere. Diciamo che non partirei dalla bicicletta pieghevole, perché purtroppo in quel caso non basta per me acquistare la bici per poterne fare l'uso ideale, servono anche altre cose infrastrutturali, però sì, è molto bello vedere all'uscita delle metropolitane di Londra tanta gente oggi uscire con la loro bicicletta pieghevole in a tracolla, che devo dire gli ultimi modelli, specialmente quelli tradizionali classici della Brompton, tradizionali com'è per il fatto che sono prodotti ormai da tanto tempo, mm-hmm, però pesano anche qualcosa di meno dei 10 kg che dicevate, sono assolutamente... È una meraviglia, non a caso le biciclette pieghevoli all'inizio venivano chiamate le Rolls Royce di Brigitte Bardot. Pensavo le Brigitte Bardot della Rolls Royce, che era un po' l'opposto. Sarebbe stato più singolare come tipo di cosa. Ecco, ma un'ultima cosa, risposta rapidissima: qual è la bicicletta più strana che ha in un certo senso censito, Barulli? È una di cui voglio ancora parlare sul sito, ed è una cosa che per noi italiani rimane nell'ambito delle biciclette assolutamente ricreative, che invece ho visto usare per la mobilità quotidiana, ed è un tandem. Tandem dove non si sta in due ma si sta in tre, ed è fatto in varie configurazioni per essere portato da due adulti e un bambino piccolo, oppure un adulto, un ragazzino e un bambino piccolo, dove magari il bambino piccolo non pedala, il ragazzino pedala, quindi ha una configurazione che gli permette di pedalare senza fatica e l'adulto sta davanti. Quindi ci sono questa tipologia di tandem che sono piuttosto diffusi in Belgio e in Olanda, ma meno da noi. Da noi purtroppo questo tipo di cose non stanno andando tantissimo, anche se bisogna dire in Italia finalmente col bike sharing, con questo risveglio da parte anche delle nostre amministrazioni locali di alcune città, ma anche con la voglia che ha la gente di inquinare un filo meno, e forse è per questo, Luca, che al geek piace la bicicletta, e anche perché è più ecologica sicuramente che non, certo, lo scooterone, certo, smagmittato. Ecco, però un altro, io ringrazio Marco Barulli, perché passiamo dalla bicicletta, che poi è meccanica da precisione, all'oggetto simbolo dei Geek, che sono poi i robot. Io in casa ammetto di avere Roomba, che è questa specie di aspirapolvere che mi ha regalato la mia mamma, che è un aspirapolvere rotondo. Ti fai regalare l'aspirapolvere dalla mamma? Sì, il motivo è evidente, evidentemente la casa non è al meglio, però è simpatico perché è rotondo, c'è un braccino fatto di setole che gira verticosamente, io esco di casa, lo attivo e dovrebbe aspirare, il condizionale d'obbligo. E invece dovrebbe... non ti aspira. No, aspira, per aspirare aspira, però l'unica cosa è che si incastra, per cui torni tu la sera e lo trovi incastrato tra una sedia che muove, che miagola, che cigola con il braccino, ed è oppure si nasconde, l'altra cosa, per cui passi i primi 5 minuti appena tornato a cercarlo sotto il letto. Non è dove dovrebbe, perché spieghiamo, Roomba, che ha un'intelligenza artificiale minima, però ce l'ha, dovrebbe imparare a muoversi autonomamente nell'appartamento, riconoscere l'appartamento, riconoscere le zone che hanno più o meno polvere e poi tornare quando ho esaurito la batteria nell'alloggiamento. Ecco, questo non accade spessissimo. Secondo me quello che stai spiegando è un filo complicato. Credo che per riuscire a capire meglio che cosa sono e come funzionano questi robot sia necessario, se non altro, la ricerca dell'esperto, che poi è il mio lavoro nella tua trasmissione, quella di cercare la persona competente. E hai trovato un signore esperto. Trovato Andrea Bonarini, professore del Politecnico, che insegna intelligenza artificiale al Politecnico di Milano. Buongiorno. Buongiorno. E il problema è un problema vero e proprio, perché noi quando pensiamo ai robot, professore, pensiamo a delle creature da film di fantascienza, pensiamo a un maggiordomo che ti sorride quando torni a casa, oppure pensiamo al cattivo di 2001 di Sé nello spazio, per chi fra noi ha i capelli un po' più bianchi. Ma sono veramente così i robot? Beh, oggi come oggi no, oggi come oggi i robot, bene o male che ci sono in giro, sono robot che sono o in fabbrica, che lavorano in fabbrica e fanno operazioni di saldatura piuttosto che verniciatura, operazioni che noi non abbiamo voglia di fare, oppure robot che si vedono poco, hanno queste forme strane, tipo il suo tondo piuttosto che la lavatrice, che sicuramente avrà anche lei in bagno da qualche parte, Quella che è la che è più intelligente di me quando carico il bucato, perché capisce cosa sto mettendo dentro. Certo. Sì, anche perché, ormai... mi spiego una cosa, la famosa, insomma, la lavatrice intelligente è semplicemente una lavatrice che quando sta per guastarsi dice attenzione mi sto guastando, e quando capisce che ci vuole troppo, più o meno ammorbidente, più o meno sbiancante, adesso non so bene qual è il nome oggi, giusto. Oggi come oggi la lavatrice intelligente, diciamo, è una lavatrice che potrebbe anche essere in grado di capire che cosa sto mettendo dentro e quindi adattare il ciclo di lavaggio a quello che sto mettendo dentro. Stanno per uscire lavatrici in cui si potranno magari regolare addirittura appunto l'ammorbidente piuttosto che il sapone, e comunque tutti quanti stanno cercando di dare un po' di autonomia a questi oggetti di casa per poter aiutarci meglio, per poterci dare qualche prestazione migliore piuttosto che farci risparmiare energia. Ma che poi lo scopo... Roomba magari non risparmia tantissima energia perché lo facciamo andare tanto tempo in giro per casa e poi chissà che cosa ci ha combinato, però sicuramente per molti è una soluzione rispetto a mettersi lì a... Ma lei professore ce l'ha a casa un Roomba che corre avanti e indietro per pulire quando è a insegnare sua moglie e siete fuori casa? Devo essere sincero, no, io ho cominciato a fare qualcosa di simile al Roomba ormai 15 anni fa, è e oltre. Visto che cosa si riusciva a fare, ho detto no, va bene, continuo a pulire da casa da solo. Ma so quindi cade un mito, cioè un professore che insegna intelligenza artificiale, cioè non ha un briciolo di intelligenza artificiale in casa? Perché non... Diciamo, il Roomba no, perché il Roomba giusto, con veramente intelligente, costerebbe troppo. Effetti ci sono in giro, ma costano troppo di più di un aspirapolvere normale, non vale la pena per il momento. Ma invece, quali possono essere? Perché a parte i sistemi industriali di cui dicevamo prima, i bracci che vengono utilizzati in fabbrica per le saldature, eccetera, e a parte questi piccoli robottini, tentativi di lavatrice, eccetera, eccetera, ma quali nella vita di tutti i giorni possono essere delle applicazioni per la robotica, l'intelligenza artificiale, che insomma diano un po' una mano, che aiutino a fare delle cose socialmente anche utili? Ci sono diversi aspetti, alcuni potrebbero essere appunto dei robot che possono essere di aiuto, ad esempio per persone anziane o disabili che possono muoversi poco. Abbiamo appena sviluppato una carrozzina che ad esempio è in grado di portarmi autonomamente in cucina piuttosto che in bagno, semplicemente dicendoglielo ed evitando di prendere ostacoli. Questo è interessante. Interessante, infatti. Interessante, appunto, e in questo momento la stiamo valutando con dei disabili veri, diciamo, quindi andiamo anche verso una situazione reale. Altre cose invece che vedremo probabilmente ancora prima sono dei robot relativamente più semplici da fare, a bassissimo costo, che sono robot che possono servire per giocare. Quindi ad esempio anche lì stiamo sviluppando dei robot con cui si può giocare come si giocherebbe con un videogame, soltanto che invece avere davanti un televisore o davanti un oggetto che scappa per casa. Cioè io inseguo l'oggetto anziché inseguire il cattivo sullo schermo. Sì. Tremolada che il robot mi spara, io gli sparo e lui riesce questo a nascondersi in casa, dietro i mobili, eccetera, eccetera. Beh, bello questo. Questo a Tremolada già piace, questa cosa. Lo vedo che gli si sono illuminati gli occhi. Quanto costa questo? Perché questo è un po' il tema. Relativamente poco, cioè l'obiettivo è fare un qualche cosa che costi più o meno come un videogame, quindi un oggetto che compreso l'hardware costi come una console. Abbiamo dalla il prototipo che abbiamo fatto adesso costa come una console. Per cui va bene. Abbiamo dalla provincia di Varese Claudio, buongiorno. Buongiorno. Lei ha cos'ha? Un aspirapolvere? Com'è no, che... io ho da 4 anni, sono il fortunato e entusiasta possessore di un Roomba. Sì? Che non funziona male come dice lei, funziona alla perfezione. Ma? Funziona alla perfezione. Ah, no, ma lei dice che funziona male. Io dico un'altra cosa. Non aspira, no, aspirare aspira bene, ma io sono anche soddisfatto. Il mio dramma è che ogni tanto si nasconde. Cioè, ogni tanto io torno a casa e o lo trovo incastrato da qualche parte, non so se lei è mai successo, oppure lo trovo sotto il letto che si è bloccato. Però per aspira, no, intendiamoci. Se i suoi mobili sono troppo bassi, per cui il Roomba non ha lo spazio per cacciarsi dentro, ovviamente sì. È quello, ma non è un problema del Roomba, è un problema dei suoi mobili. No, Roomba ha anche dei muri virtuali, sì, che lei può posizionare dove non c'è lo spazio sufficiente per il Roomba per funzionare. Vedi, questo Luca non lo sapevi, che no, gli puoi anche spiegare la casa un po' meglio com'è. E puoi sempre cambiare mobili se il Roomba non si trova a suo agio. Detto questo, volevo dire al signor Claudio, cioè io lo ritengo un membro della famiglia, nel senso, cioè Roomba non è irrinunciabile per me, cioè è come i pesci rossi. Per cui sì, questo... puoi umanizzarlo con due occhioni, due orecchie, quelle di fuori a casco, esatto, e un codino, e vi seguono lungo la casa, ecco, mamma. No, no, professore, questi qui sono i primi robot in realtà quasi antropomorfi, no? Ora Roomba non è antropomorfo per nulla, però sono quelli che cominciano a diventare anche nostri amici. Sì, diciamo, non è antropomorfo per nulla, però ha già delle funzionalità sufficienti per interagire in maniera divertente sia con noi sia con gli animali che ci sono in casa. Si trovano in rete dei filmati divertentissimi di gatti e cani che giocano con i Roomba. Sicuramente è un oggetto di cui la gente non ha paura, quindi oggi come oggi, se avessi un robot alto 1,5 metri e mi viene in giro, probabilmente avrei più problemi che non... Che va a giro col trapano per mettere i quadri, io avrei un po' di ansia a stare in casa con quello lì. Anche col trapano, insomma, comunque un oggetto che peserebbe 80 kg e che potrebbe in qualche modo avere più problemi anche di interazione fisica rispetto a un oggettino che sta per terra, pesa 10 kg e... Ecco, tra l'altro, nessuno, sicuramente. Questo è uno dei problemi comunque. Tra l'altro, dei problemi che ci saranno. Professore, tra l'altro, lei è anche protagonista, nel senso, organizza campionati di calcio con i robot. Sì. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolano al microfono, Antonio Dilini al microfono. Abbiamo in collegamento il professore del Politecnico di Milano, Andrea Bonarini, che insegna robotica, intelligenza artificiale a Milano. Stanno arrivando moltissimi sms. Qua c'è una signora che di Schio che ha chiamato il suo Roomba, cioè il suo robot per pulire la casa. L'ha chiamato Micio. Che vabbè. Ognuno la sua. Io non l'ho chiamato il mio personale, nel senso che non lo chiamo, però è una buona idea di personalizzarla. E proprio sul tema delle personalizzazioni, io volevo chiedere al professor Bonarini se ci sono degli esperimenti per introdurre i robot con i bimbi, con i bambini, cioè se il robot è un partner di gioco. Partner di gioco in parte sì, diciamo ci sono molte attività in cui si usa il robot o la possibilità di costruire dei robot come strumento di formazione, cioè sostanzialmente si coinvolgono i ragazzi nell'ambito delle attività scolastiche o anche magari presso musei o comunque centri dove si possono svolgere queste attività per costruire dei robot, programmarli e fargli fare delle attività. E questo è uno strumento, diciamo, molto valido per stimolare le varie competenze ai vari livelli, quindi dalle elementari alle medie fino su alle superiori. Fra parentesi, professore, l'utilizzo dei robot con i bambini e l'utilizzo dei robot con gli anziani, anche in questo secondo caso, oltre che con le persone che hanno delle disabilità, come dicevamo prima, diventerà nel corso degli anni probabilmente anche qualche cosa di abbastanza importante. Se ho capito bene, l'Italia è un paese in cui ci sono molti studi sulla robotica, il Giappone è storicamente uno dei paesi in cui la robotica anche a livello sociale, nell'immaginario, ha un grande ruolo, e sono due paesi in cui la popolazione invecchia in maniera importante, no? Sì, sì, sicuramente, diciamo, anche se ovviamente il rapporto con i robot in Italia e in Giappone è pensabilmente un po' diverso, diciamo. In Giappone, ad esempio, hanno fatto degli esperimenti con dei robot che hanno una forma tipo delle piccole foche di peluche e con cui questi anziani interagiscono. Il robot ha molti sensori, quindi si può accarezzare, reagisce, fa dei versi. L'anziano in qualche modo sta un rapporto che è un rapporto di compagnia, non solo l'anziano ma anche ragazzi magari con dei problemi come può essere l'autismo, che con un strumento di questo genere si ritrovano ad avere un interlocutore che non è necessariamente un uomo, non è necessariamente una persona, e quindi rende più facile riuscire a interagire e esprimere. Ecco, professore, noi abbiamo in collegamento, proprio mi ha, come si dice in gergo, mi ha alzato la palla, noi abbiamo in collegamento Leonardo Giusti, che si occupa proprio di interazioni uomo-macchina. Buongiorno Leonardo. Buongiorno. Tu sei giovanissimo, 29 anni, per cui insomma stai occupando di questi temi con la giusta passione. Ecco, raccontami quello che state facendo nel vostro laboratorio. Ok, io lavoro nel laboratorio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università di Siena e il mio gruppo di ricerca, guidato dalla professoressa Marti, sta lavorando esattamente sulle tematiche di cui avete appena parlato. In realtà noi abbiamo ormai da diversi anni una collaborazione con Takanori Shibata, che è l'inventore di Paro, il robot di cui parlava il professore precedentemente. Che ricordiamolo, quindi è questa foca, no? Cioè sì, che è una foca con la pelliccia. Esatto, è all'apparenza, alle sembianze di un pupazzo, se vogliamo, di un peluche, però all'interno contiene una tecnologia abbastanza sofisticata, in grado di riconoscere varie tipologie di stimolazioni, audio, video, ed in particolare ha questo sensore tattile nascosto sotto la pelliccia, quindi in grado di riconoscere il modo in cui le persone la accarezzano. Ecco, ma a cosa serve? Cioè, spiegalo meglio, insomma. Sì. Allora, noi diciamo l'abbiamo usata in due contesti in modo particolare, con i pazienti, con persone malate di Alzheimer, pazienti anziani, sia con bambini autistici. L'abbiamo introdotta all'interno di una casa di cura a Piacenza per cercare di capire se questo strumento robotico fosse in grado in qualche modo di ridurre alcuni dei disturbi comportamentali che queste persone cominciano a manifestare anche in maniera piuttosto violenta e aggressiva. Ecco, funziona? Cioè dagli esperimenti allora, che avete condotto? Allora, non è facile dire se funziona o meno. Per adesso possiamo dire che in alcuni casi studio abbiamo visto che la presenza del robot, in particolar modo con un signore che aveva violenti attacchi anche nei confronti dei terapisti e degli altri pazienti, in qualche modo la presenza del robot riduceva questi disturbi comportamentali, cioè okay, manipolando il robot, accarezzandolo, parlandoci, in qualche modo il paziente si calmava. Ma ecco, poi mi dicevi di un altro esperimento oltre al quello della foca che state conducendo. Sì, questo è in realtà un altro progetto, è un progetto europeo che si chiama Iromec. E in questo progetto europeo, in collaborazione con vari partner internazionali, stiamo sviluppando una piattaforma robotica che, se vuoi, per certi aspetti assomiglia un po' al Roomba, nel senso che è una piattaforma con le ruote. Si torna sempre sul Roomba, alla fine non si scappa. Che il Roomba, diciamo, serve a fare qualcosa, cioè al pulire il pavimento. Quindi ha una funzione, come dire, chiara, ecco. Esatto. Questo robot invece ha una funzione espressiva, in qualche modo vuole manifestare un comportamento sociale per coinvolgere le persone in un'interazione di tipo sociale. Quindi, diciamo, esprime un certo tipo di socialità. E lo stiamo usando con i bambini autistici. Ah, ecco. Perché lì vedere quali sono le reazioni, cioè come si atteggiano, come si comportano nei confronti di questi robottini. Esattamente, perché i bambini autistici hanno dei problemi a relazionarsi da un punto di vista sociale con le altre persone. I robot hanno il vantaggio che possono essere degli agenti sociali molto semplici e tu puoi andare a controllare ogni aspetto del loro comportamento sociale, quindi possono essere molto utili in un intervento terapeutico, perché puoi partire, come dire, a educare i bambini autistici ad una socialità inizialmente molto semplice, molto controllata e man mano sempre più complessa. Professor Bonarini, quindi nel mondo questi robot non sono solo una passione per noi geek, noi appassionati di oggetti e di tecnologie, ma veramente stanno iniziando a riempire aspetti molto diversi della nostra vita. Mi sembra che sia un settore assolutamente attivo questo qui, no? Sì, sicuramente ci sono previsioni di un'esplosione esponenziale nei prossimi anni, previsioni che fanno sia diciamo i robotici e le loro associazioni, sia dei geek storici come Bill Gates, che ancora 3 anni fa disse che dopo PC e telefonini il prossimo oggetto tecnologico in tutte le case saranno i robot. Ecco, c'è un ascoltatore che dice: dimenticate di citare Pleo, la più grande bufala robotica. Però ecco, Marco, però io devo sbugiardarlo, perché io ce l'ho Pleo, ce l'ho in casa, esatto, non mi faccio mancare ma cos'è nulla. Pleo, cos'è? Allora, Pleo è un piccolissimo dinosauro che simula le prime fasi del cucciolo, cioè da cucciolo di dinosauro. Cucciolo di dinosauro, è infatti è in via di estinzione, tra l'altro, perché la società sta fallendo. Per cui la cosa drammatica è questa. Però è una bufala ed è vero, nel senso che dopo 30 minuti ti sei già scocciato. Però è una meraviglia della tecnica, nel senso che è questo robottino a forma di dinosauro che cammina, chiede attenzione, è pieno di sensori, per cui se lo accarezzi fa le fusa. Tra l'altro, le fusa di un dinosauro sono dei versi tremendi, no? Però è come complicarsi la vita inutilmente. Ecco, è un esempio di intelligenza artificiale. Forse è anche un esempio di progettazione. Cioè, voglio dire, anche la Sony aveva il cagnetto Aibo e l'idea era di farne un cagnetto di compagnia, però alla fine è veramente difficile arrivare alla progettazione di un oggetto che da un lato costi poco perché deve raggiungere un certo mercato e dall'altro lato soddisfi le esigenze dell'utente. Cioè, spesso capita ai robotici di perdere un attimo di vista quello che potrebbe essere il mercato, se vogliono andare sul mercato, per seguire i sogni personali, quindi di fatto ci mettiamo tanti sensori, ci mettiamo tante cose e poi alla fine però quanti hanno voglia di accarezzare un oggetto di plastica che al limite grugnisce un po'. Grugnisce tanto, professore, gliel'assicuro, grugnisce un sacco. Per grugnire, no, tra l'altro non costa poco, perché adesso io non so gli attuali prezzi, però insomma un paio di anni fa quando me l'hanno regalato insomma erano diverse decine di... ma chi è che ti regala un robot, perdonami? Questa è mia moglie. Tua questa moglie? Mia moglie. Sì, una roba... un messaggio. È un messaggio. Comunque, grazie professore. Io volevo chiedere una cosa a Giusti al volo. Giusti, ma lei è un geek? Beh, non proprio un geek, mi definisco più un ricercatore, se posso. Cioè, per cui vedi, questo termine qui è, non piace. Ma per esempio, tra la macchina caffè automatica cialde e la macchina invece classica moka? No, io preferisco di gran lunga la moka. E allora non è un geek, vedi? Cioè, favorisce l'abuso di caffè, che è fondamentale. Però vedi, l'abuso di caffè fa già più parte del geek. Poi ci sono altri che ti dicono che è meglio la moka perché c'hai solo una guarnizione da cambiare. Invece la macchina del caffè con le cialde complicata ti rende la vita più complessa come manutenzione. Però si può smontare la macchina per le cialde. Sì, infatti, tra l'altro. Che bello, smontarla intendo. Tra l'altro io volevo accennare a un gioco che poi magari lo sviluppiamo nell'ultima parte della trasmissione, che è un classico esempio di chi sono i geek. Il gioco è, conoscete tutti, carta, forbice, sasso. È un gioco millenario. I geek, questa l'ho presa da una famosa serial televisione TV che non so se è arrivata in Italia, che si chiama Big Bang Theory. I geek l'hanno reso più complicato. Sì, la teoria del Big Bang, la trasmissione che credo sia sui canali a pagamento, praticamente dei tre elementi che si giocano con le mani, il sasso con il pugno chiuso, la carta con la mano aperta o le forbici, facendo il segno appunto delle forbici con l'indice e col medio, ne hanno aggiunti altri due. Esatto, perché ne hanno aggiunti due? Perché hanno visto che nell'80% dei casi insomma finiva in pareggio. Gli altri due elementi. Sono Spock, che è lo Spock di Star Trek, e il Lizard, che è la lucertola, però quella velenosa. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Murdoch lancia Sky Songs e punta a battere iTunes. Il 19 ottobre debutterà la nuova piattaforma di Sky per l'acquisto di musica digitale in download e streaming. Saranno disponibili 4 milioni di brani delle case discografiche EMI, Sony Music Entertainment, Warner Music e di un centinaio di indipendenti. Il servizio sarà accessibile con un canone mensile minimo di 7 euro che permetterà ascolti illimitati più il download di un album. un videogame per acchiappare i criminali veri. La polizia britannica attiverà a breve Internet Eyes, gioco online, nel quale gli utenti sfruttano il circuito di telecamere pubbliche per individuare crimini e criminali denunciandoli. In palio per i cyber poliziotti migliori, premi mensili di 1.100 euro. Un pagliaccio nello spazio. Sulla stazione internazionale Guy La Liberté, il fondatore del Cirque du Soleil ha tenuto venerdì uno show di 2 ore, indossando un naso rosso da clown. La Liberté, che per il viaggio ha sborsato 35 milioni di dollari, ha dedicato la performance al problema della carenza d'acqua sul nostro pianeta. Vi sentite scarsi con i videogiochi? O magari troppo abili? Non disperate, i videogames presto potrebbero diventare su misura per voi. Ricercatori dell'Università di Copenaghen, riporta il New Scientist, hanno sviluppato una versione di Super Mario capace di adattarsi agli stili di gioco individuali dei giocatori. Propellente per razzi alle caramelle. È il progetto realizzato da ingegneri dell'Università di Hereford in Inghilterra, presentato alla BBC. I ricercatori hanno dimostrato che è possibile ricavare un carburante ad alto potenziale dal toffee, la morbida caramella al latte. Stiamo parlando di robot, stiamo parlando di Pleo, tra l'altro 300 euro Pleo, controllato adesso su Mr. Price, e abbiamo in collegamento Luciano D'Alecco. Buongiorno. Buongiorno. Lei mi spiegava che ha dei tagliaerba robot intelligenti? Beh, direi proprio di sì. Sono già primo, l'ho presi 5 anni fa quando non avevo più la forza per tagliare il mio prato, messo un pochettino mosso. E devo dire che lo posso chiamare salvavita perché adesso riposando ho sempre tagliato, sempre il prato perfetto tagliato da questo robot che quando si stanca, si scarica, va a caricarsi, quando piove va a letto ancora e poi quando smette torna fuori. Devo dire che la robotica sotto questo aspetto ha ancora qualche pecca perché naturalmente vorremmo sempre le cose migliori e che vadino sempre perfettamente. Però devo dire che è una grossa soddisfazione stare lì a guardare a lavorare. Vabbè, guardare gli altri lavorare è sempre una cosa bella. Se poi sono i robot che lavorano è meraviglioso in questo caso. In effetti io mi ritrovo seduto con in mano un bel bicchiere a guardare questo che taglia l'erba. Ecco, ma gli ha dato un nome? Certo, vabbè, hanno un nome che è già in pubblicità, se vuole lo dico, non c'è problema. No, se gli ha dato un nome personale, perché avevamo un ascoltatore che ha chiamato Rumba Micio. No. I Rumba ne ho 3 o 4, guarda. Ah, vabbè, allora è un professionista, lei. No, ma da quando è nato ancora c'erano, chiamiamolo Rumba, che poi non era Rumba, quello con la pallina al centro, sì, che girava a pulire, poi ce n'era un altro, insomma, ce n'erano diversi. Li ho provati tutti, ma quelli li ho scartati. Il Rumba non l'ho ancora preso, no. Ah, ok. Vabbè. Però devo dire che vanno bene, ecco. Va bene, grazie. Vedi, grazie. Vedi che uno si deve dare dei limiti, però sì, prende infatti tutti, ma però fino al Rumba. Infatti, Leonardo Giusti è ancora in collegamento, sì. Sì. Ma ti do del tu hai qualche robot in casa che ti occupi di interazione con i robot, uomo-macchina? Io ho in casa quel robot di cui parlava il professore prima. Ah, cioè, ho capito. Che tu puoi costruire e programmare. E lo hai costruito e l'hai programmato per far cosa? Beh, lo fai per le ragioni più disparate. Lo fai prima di tutto per divertirti e per vedere. Perché si può fare, questo è il motivo per farlo. Sì, esatto. Non è che c'hai. Cioè, c'è anche chi si. Io ho conosciuto un ragazzo una volta ad un festival che ha programmato con quel robot lì un piccolo robottino che risolveva il cubo di Rubik. Ah, ci picchia. Vabbè, ma che utilità, scusa? Ma nessuna lì era per dimostrare. Cioè, che è più intelligente di te, perché io prendo il cubo di Rubik che non sono mai riuscito. No, è un'umiliazione continua. Ah, Luca, dovevi dire che lo fa più velocemente di me. Okay, invece, no, mette tipo un minuto questo robot a fare. Vabbè, non è velocissimo, però, perché io ho visto su internet che ci sono le gare con il cubo di Rubik dei ragazzini che in 4 mosse riescono. Insomma, il fattore umano vince, dai, chiudiamolo con il fattore umano vince, vinciamo sempre noi, no? Ma sì, diciamo così. Finché non bisogna fare a botte con un robot di 2 metri che pesa 200 kg. Allora no, esatto, forse lì è gioco forza facile. Quello è Terminator. Leonardo Giusti, grazie. Prego. Ricordati di collegarti al Twitter www.twitter.com/novalab24. Poi abbiamo la pagina, cioè Antonio Dini che mi fa vedere un cartello per ricordarmi tutto, e poi abbiamo la pagina su Facebook dove anche lì raccontiamo un po' tutti i link della trasmissione, metteremo anche il link di Play o metteremo il link, Luca, di tutto. Dobbiamo ancora parlare del giochino sassi, sì, carta, allora, forbice, ce la facciamo? No, non ce la facciamo perché manca poco più di un minuto. Allora, ricordiamo, il giochino ne parliamo domani perché Antonio Dini, che è il mio sparring partner su questo giochino, lo raccontiamo domani, anche se domani parliamo di innovatori. Domani, attenzione, il tema sarà innovatori nella pubblica amministrazione / sanità, cioè andiamo a capire bene come si possono velocizzare, digitalizzare, togliere le file, insomma cerchiamo di capire che cosa la tecnologia riserva al settore della sanità. Eh sì, perché qui il problema è non solo contenere i costi da un lato, ma anche riuscire a dare un valore maggiore, perché con la tecnologia è sempre possibile, ricordiamocelo, migliorare alcuni dei processi che in questo momento non si riescono a fare. Quindi domani del Pietro Ritco, Micifico, Dini con noi, il gioco carta, roccia, forbice, SPAC e lizard, lo chiamiamo lucertola, e poi la sanità. A domani!